Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Non so se piangere o sorridere ascoltando in questi giorni del dopo festa i sondaggi di risultati sui costi delle vacanze e dei cenoni. Certo c'è una bella crisi economica e si capisce quanto stiano a cuore agli imprenditori e al governo i numeri dei consumi alimentari, del superfluo e ora dei saldi che imperversano. Ma è chiaro che oramai noi cittadini abbiamo valore solo in ragione del nostro consumare. Siamo considerati dei tritatutto. O forse dobbiamo diventarlo. Mi è venuta la nausea a contare quanti zamponi, torroni, panettoni, salmoni ci siamo mangiati a testa. Mi piacerebbe sapere chi si è mangiato i 35 centimetri di torrone che io non ho consumato, avendone per statistica 50 da ingurgitare. Pazienza se quotidianamente da illustri medici veniamo invitati a non esagerare nell'alimentazione per il benessere e la salute. Durante queste feste, la nostra unica preoccupazione, quasi un dovere nei confronti della società, è stata quella di spazzolare il più possibile, dai dolci ai prosciutti, evitando accuratamente datteri e ananas, che sappiamo non crescono nei giardini di casa. Anche ora che sono finalmente iniziate le svendite, chissà quanti ci hanno perso le notti nell'attesa. Dovremmo tutti dormire in tenda davanti ai negozi per non perderci l'occasione di risparmiare qualche euro su quello che non ci serve. Ma sai che soddisfazione? Abbiamo capito. Ci volete tutti bulimici e malati di shopping, ma le persone che lo sono veramente non vanno forse dallo psicologo per guarire? Beh, certo devono vivere pure loro, gli psicologi, non dimentichiamocelo. A volte però si ottiene l'effetto opposto. Io, infatti, mai come quest'anno non sento il desiderio di uscire e acquistare, perché non mi piace sentirmi una forzata del saldo, non mi piace sentirmi condizionata e usata, non mi piace sentirmi quasi obbligata a consumare a tutti i costi. Beh, un sacrificio lo farò. Non dirò mai di no all'offerta di un gianduiotto. Nelle statistiche ho superato sicuramente chiunque. Giulia. Sono una commerciante del settore abbigliamento e vorrei scrivere a proposito dei saldi di cui si parla tanto in questi giorni. Come prima cosa, volevo far notare che una volta, giustamente, li chiamavano saldi di fine stagione, perché venivano fatti a cavallo tra febbraio e marzo e forse avevano un senso. Ora che vengono proposti all'inizio di gennaio, in una stagione come l'inverno che da calendario ha inizio il 21 dicembre, che senso ha chiamarli saldi di fine stagione? A noi commercianti e a qualunque altra attività non vengono mai proposti sconti nelle spese di gestione. Eppure si vuol far credere che nel nostro lavoro un articolo possa essere quasi regalato, a distanza di pochi giorni dall'inizio della stagione. Se non vendo ora che è inverno un capo invernale ad un prezzo coerente e che mi permette quindi di continuare a lavorare e vivere, quando lo posso fare? Ormai ovunque andiamo i cartelli degli sconti ci fanno da paesaggio. Vuoi un'automobile? Ecco pronto lo sconto su misura per te. Vuoi un arredamento? Vuoi una vacanza? Sconti per tutti. Scusate, ma io per vivere, come tutti del resto, devo portarmi a casa uno stipendio che mi permetta di far fronte al quotidiano. E mi piacerebbe continuare a farlo senza prendere in giro nessuno, senza imbrogliare i miei simili, senza vendere fumo. Ma pare che alla gente e alle istituzioni questo non interessi. Se non esponi un cartello con scritto sconti, non sei normale. Hanno dato concessioni per costruire enormi centri commerciali ovunque. E ora che il popolo non sta spendendo più come prima, si preoccupano di come incentivare le persone ad andare a spendere da loro e non sanno fare altro che vendere fumo. Forza, dai, ci sono i saldi! Questa società ha preso una piega che non mi piace, altro che crisi. Questa è una guerra tra poveri, perché chi ha i soldi il quotidiano lo vive in un altro modo che forse noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. Il Natale una volta era una vera festa. E per chi ci crede, lo è ancora. Oggi invece per molti è solo uno stimolo per trovare il modo migliore di far spendere soldi alle persone. Che soddisfazione. I sindacati poi mi hanno stancato con la loro ottusità e con il loro continuare a proclamare scioperi il venerdì per ottenere più adesioni possibili e fare la voce grossa. Gli industriali chiudono le filiere produttive perché la manodopera in Italia è troppo cara, vanno a produrre all'estero a costo bassissimo di manodopera, per poi importare qui e vendere a prezzi stracciati? Senza dazi doganali, questa non diventa forse concorrenza sleale con chi invece rimane a produrre qui? Lettera firmata. Ben vengano in Italia film come Gomorra, che probabilmente con l'arte non ha nulla a che fare, ma che può essere utile per sollecitare e sviluppare una più continua repressione della camorra e per sensibilizzare una più ampia platea di opinione pubblica verso questo problema della regione campana. Spero che possa influire sulla cultura della parte della società più facilmente coinvolgibile dal modo di ragionare della camorra. Ho i miei dubbi. Purtroppo, l'immagine predominante nel mondo dell'Italia e degli italiani è quella di fantasiosi buffoni, di pizzaioli e di mafiosi, e di conseguenza inaffidabili, falsi, superficiali e poco credibili negli impegni e nelle relazioni. È banale cavarsela definendo cretino chi ti gratifica in modo esplicito di appartenere alla genia dei mafiosi. E fin come questo, non contribuiscono certo a recuperare una visione più equilibrata delle realtà italiane. Bruna. Buongiorno, direttore. Qualche giorno fa ho sentito la notizia dei fan del mafioso Totò Riina che affollano Facebook. Era una notizia che mi aspettavo di sentire da un momento all'altro e infatti mi è scappato un «hai visto che avevo ragione» rivolto a mio marito, riferendomi ad un ragionamento fatto qualche tempo prima, vedendo il telefilm Il Capo dei Capi. Vorrei cercare di condividere con lei il ragionamento da me fatto in quell'occasione. Mi stupivo di vedere un telefilm in numerose puntate il cui protagonista è un delinquente, un essere malvagio e una persona che ha fatto tanto male a singole persone e alla società. Il mio stupore proseguiva nel vedere la narrazione dei fatti mescolata alla loro lucida pianificazione e alla vita familiare di questo delinquente. Non so cosa mi infastidiva di più. Il fatto di vedere un delinquente dei nostri giorni protagonista di un telefilm senza che ci sia stato il modo di storicizzare un personaggio. Il fatto che tutto sommato il capo dei capi sia un personaggio vincente. Aveva un progetto e lo ha realizzato. Ha vinto sopra la giustizia, la legge e sulla libertà della gente della sua terra. Ha vinto sui suoi nemici e ha fatto un sacco di soldi attraverso delitti e atti al di fuori della legge e ha creato benessere per sé, la sua famiglia e i suoi adepti. Mi ha infastidito vedere una persona malvagia rappresentata nella sua vita familiare e nella logica del sistema d'onore, dove tutto sommato il male prodotto e i delitti compiuti sembrano quasi giustificati da un fine ultimo. O forse mi ha infastidito l'ennesimo film sulla mafia, da sommare ai Sopranos e al Padrino e gli altri della serie, dove il tema della criminalità organizzata diventa folklore e avventura. Forse ancora mi ha infastidito vedere che una persona tanto abietta e spietata avesse un volto umano normale. Non me ne voglia l'attore che lo ha interpretato, ma io avrei voluto vedere un mostro, magari con le corna, i piedi caprini, la pelle squamata. Non pensi che io sia un oscurantista, ma forse preferisco che il male sia rappresentato dalla strega cattiva di Biancaneve o dal volto disumano di Voldemort. Insomma, ho una bambina di 11 mesi e mi domando come sarà il suo futuro, come spiegarle la realtà nella sua complessità, nei suoi aspetti positivi e negativi. E allora mi metto nei panni dei genitori di quei ragazzi che idolatrano questo mostro. Mi metto nei panni dei genitori dei ragazzi che si drogano arricchendo i mafiosi. Mi metto nei panni dei genitori delle persone uccise da questi delinquenti. E mi metto nei panni dei genitori siciliani, calabresi, napoletani, la cui vita non è libera grazie a questo sistema di criminalità. Questo vorrei vedere rappresentato. Il male nella sua forma reale, il delitto nella sua forma spregevole e la violenza nella sua sanguinosa crudeltà, in modo che si debba cambiare canale per non guardare. Perché la realtà del male è orribile e fa schifo. E la si possa rifiutare, opporsi e combatterla. Maria Silvia Mantova. Quando Hamas ha vinto le elezioni, ha solo pensato a lanciare razzi e non ha dato né cibo, né scuole, né ospedali. Non ha costruito aeroporti. Ha usato la religione come scusa per far morire di fame i palestinesi. I dirigenti di Hamas devono ammettere che hanno paura della morte e fanno morire gli altri al loro posto. Se non vogliono Israele, escano allo scoperto e abbiano il coraggio di combattere con onore per vincere o perdere. Lettera firmata. Come mai nessuno gridò alla strage, politici italiani per primi, perpetrata dai russi lo scorso agosto in Georgia, dove furono trucidati 2000 civili georgiani? E a proposito delle manifestazioni a favore di Gaza della comunità araba musulmana, visto che a detta loro si trattava di una manifestazione per la pace, Come mai l'hanno organizzata solo ora e non quando Gaza lanciava costantemente razzi su Israele? Rafi. Ancora una volta siamo a commentare una strage. Nei giorni scorsi, 4 giovani sono morti in un incidente stradale nei pressi di Civitavecchia. Scopriamo poi che il guidatore, e probabilmente anche i suoi sfortunati amici, erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ecco allora che irrompe alle cronache un problema ben più grave che non quello derivato, l'incidente stradale. Ma potrebbe essere anche l'incidente sul lavoro o qualche altro guaio. Irrompe il problema dello smodato uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani. Devo ammettere che già nel periodo della nostra gioventù, metà anni 80, abbiamo avuto contatto con il mondo della droga, chi poco, chi tanto. Allora era l'eroina a farla da padrona per i più incasinati, mentre le canne, hashish e marijuana, nero afghano, erano sostantivi noti ad almeno al 60% della mia generazione. Poi hanno iniziato a prendere piede ecstasy e cocaina, o altri acidi, molto molto pericolosi, ma la loro incidenza era lieve, essenzialmente perché droghe di filosofia diversa. È inutile parlare del problema se non lo si conosce dal di dentro, se non lo si è vissuto, se non si sono vissute le motivazioni, le problematiche. Oggi, genitori ignari ed incapaci di capire, solo raramente lassisti, anche se un po' di lassismo c'è, senza dubbio. Con la complicità di istituzioni incompetenti, non si rendono conto di quanto sia diffuso il fenomeno. Assieme all'alcolismo, o eccesso di alcol che dir si voglia, oserei dire che solo il 10% dei giovani è sano, tradotto non ha mai fatto uso di sostanze. È un'affermazione forte, ma il problema è profondo, inutile nasconderselo. Così come è inutile stringere sulle conseguenze e continuare a commentare, attoniti, strage su strage, chiedendo provvedimenti sempre più restrittivi fino al limite di risultare assurdi come la percentuale di alcol proposta come soglia per il ritiro della patente. Così si rischia solo di criminalizzare tutti, senza centrare l'obiettivo allargandolo all'infinito. Occorre invece capire il problema ed agire in maniera mirata. Occorre controllare a fondo i luoghi di aggregazione, i loro frequentatori. Occorre educare le famiglie a capire e ad agire, anche in maniera dura. Occorre responsabilizzare gli stessi giovani e meno giovani, riaffermando che la propria libertà personale finisce dove inizia quella degli altri. Quindi, liberi di fare le proprie scelte, ma attenzione che le pene per chi viola e reca danno saranno gravi. Occorre far maturare una generazione che sta andando oltre il limite, che forse è già oltre il limite. Lettera firmata. Complice l'insonnia, lo scorso 31 dicembre, a notte fonda, ho visto in TV con grandissima emozione la differita del Te Deum di Hector Berlioz, diretto l'ottobre scorso dal maestro Claudio Abbado al Palasport di Bologna. A questo straordinario evento, svoltosi sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, hanno partecipato congiuntamente svariati complessi italiani. Ben 3 orchestre, di cui 2 giovanili, 2 cori, l'uno teatrale e l'altro sinfonico, e 3 cori di voci bianche, uno dei quali denominato un coro in ogni scuola. Dunque un meraviglioso concerto dall'alto valore simbolico che ha coinvolto quasi 1000 musicisti italiani ed europei, dai bambini agli adulti professionisti, in uno sforzo organizzativo ed artistico esemplare, proprio nel momento in cui nel nostro paese si taglia sulla cultura. Mi chiedo, in quale paese sto vivendo? O meglio, che diamine di paese la TV nazionale italiana va rappresentando? Ho amici all'estero che in occasione dei tradizionali auguri di fine anno mi hanno ricordato con risolini di compatimento quello spettacolo imbarazzante trasmesso in diretta in Eurovisione dal Senato della Repubblica il 21 dicembre. Mi rivolgo pertanto alle massime autorità dello Stato italiano e ai vertici della radiotelevisione italiana, alla quale pago il canone obbligatorio perché io, ma penso anche tantissimi miei connazionali, vorrei essere rappresentato in Eurovisione da produzioni musicali della qualità espressa da questo concerto di Claudio Abbado, artista che da decenni onora l'Italia dirigendo le maggiori compagini sinfoniche al mondo e che malgrado ciò, nei titoli di testa della trasmissione si fa appellare molto umilmente concertatore. Produzioni di questo genere credo debbano essere poste in vetrina, ad illustrazione del livello artistico che il nostro paese può e sa esprimere, anche in momenti di estrema difficoltà. Non certo quel desolante spettacolo affidato all'incerta direzione del maestro Giovanni Allevi, pianista-compositore pop di debolissima ispirazione, che in un ormai ricorrente delirio mistificatorio, corroborato da robuste dosi di impudenza e di presunzione, va autoproclamandosi rigorosamente senza alcun contraddittorio quale profeta della musica dell'avvenire e messia della nuova musica classica contemporanea. Simpaticamente megalomane si definisce il maestro Allevi negli spottoni promozionali che gli vengono concessi a tambur battente su radio e TV pubbliche e private. Hector Berlioz doveva esserlo altrettanto, e forse anche meno simpaticamente. Tuttavia, basta avere elementari rudimenti di armonia complementare per accorgersi che c'è più novità nell'attacco del Te Deum di Berlioz, scritto 160 anni or sono, che nell'intera opera del sedicente innovatore ascolano del terzo millennio. Laura. Buongiorno, direttore. Vorrei parlare di Alitalia. È un tema trattato e ritrattato, ma oggi che tutto sembra prendere una giusta via, nessuno, e dico nessuno, porta avanti una lotta o una qualsiasi forma di ribellione mediatica a favore di tutte le migliaia e migliaia dei piccolissimi azionisti di Alitalia che oggi rischiano di possedere carta straccia al posto dei loro risparmi. Brunetta dice che chi investe in azioni lo fa a suo rischio e pericolo. Ma è troppo comodo risolvere una questione di tale portata con una frase così scontata. Il fatto è che la questione non è da archiviare. Berlusconi disse che Alitalia andava salvata e che era assurdo tenere aperte le trattative delle azioni in borsa e che andavano sospese. E così andò. Ma oggi si parla di carta straccia e nessuno vuole approfondire o rompere le scatole, permetta l'eufemismo, in merito a questo. Neppure il buon Vespa si sogna di intitolare una serata di porta a porta ai piccoli investitori all'Italia in modo serio e senza tanti fronzoli. Caro direttore, questa mia lettera non vuole essere una richiesta di elemosina, non vuole essere un tentativo per recuperare i miei risparmi, ma è più che altro uno sfogo causato da un'ingiustizia bella e buona. Lettera firmata. Carissima, quanto dichiarato nei giorni scorsi dal commissario Fantozzi non sembra lasciare margini di dubbio. Sarà già difficile rimborsare i creditori e quindi sarà praticamente impossibile pensare a qualche indennizzo per gli azionisti. Lei parla di piccoli investitori all'Italia che perderanno tutto quanto avevano investito. Vede, tutto si può dire, ma non che della situazione fallimentare della compagnia non si parlasse da almeno 10 anni. Ora, chi ha investito in azioni di questa società era perfettamente informato che un eventuale utile poteva derivare non tanto dalla gestione operativa quanto da un'ipotetica vendita del gruppo. Possedere azioni all'Italia equivaleva quindi a una scommessa, puntando a realizzare un guadagno se fosse andata a buon fine un'operazione di cessione. Le scommesse ogni tanto si vincono, ma ogni tanto si perdono. E mi consenta, non è per nulla sciocco affermare che chi investe in azioni lo fa a suo rischio e pericolo. È semplicemente la verità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.